Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri, Laura Fagin, che sono in redazione, e Valeria Bernardi a dare musica e ritmo a questa puntata. Una puntata in cui percorreremo parecchi chilometri, perché il titolo, se vogliamo riassumerlo, è Stati Murati, Sovranità in Declino, e lo mutuo dal titolo di un libro di Wendy Brown, che è una professoressa, una docente americana, insegna a Berkeley, insegna appunto scienze politiche, e esprime una tesi interessante. Nuovi muri rigano il globo, muri icone degli stati, possono sembrare simboli iperbolici, ma come ogni iperbole, proprio nel cuore di ciò che intendono esprimere, rivelano timore, vulnerabilità, dubbio o instabilità. Le fortezze sono generalmente molto più dannose che utili. Niccolò Machiavelli. Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. E nel corso di questa puntata ascolterete testimonianze e riflessioni sui muri e sulle sovranità. Avete sentito Machiavelli, ma sentirete anche leader politici contemporanei. Perché? Perché il senso della puntata di questa sera di Nessun Luogo è Lontano è proprio andare a fare una ricognizione su queste nuove entità che sorgono un po' in giro per il mondo. Allora partiamo in quello che potremmo definire un viaggio, un giro del mondo in 80 muri, in realtà sono un po' meno. Ascoltiamo i primi. Thailandia-Malesia. Il muro, lungo 27 chilometri, fu fortemente voluto per contrastare l'arrivo di armi destinate alla guerriglia musulmana e separatista thailandese e per frenare l'influenza dei fondamentalisti malesi sui musulmani thailandesi, in un paese a maggioranza buddista. Corea del Nord, Corea del Sud. Più o meno all'altezza del 38° parallelo, una barriera profonda 4 km e lunga 241, caratterizzata da centinaia di torri, muri e filo spinato, separa le due Coree dal 1953, ovvero dalla fine concreta della guerra di Corea. Cina, Corea del Nord. La Cina, a lungo alleata della Corea del Nord, ha deciso nel 2003 di costruire un muro lungo i suoi confini. Il progetto ha avuto un'accelerazione in seguito agli esperimenti nucleari condotti dal governo di Pyongyang e dalla fuga di numerosi profughi nordcoreani che chiedevano asilo politico in Cina. India, Pakistan. La barriera è chiamata linea di controllo. Si estende per 3.300 chilometri e dal 1949 divide la regione del Kashmir in due zone, quella sotto il controllo indiano e quella sotto il controllo pakistano, che vorrebbe l'indipendenza dal governo di Nuova Delhi. Iran, Afghanistan, Pakistan. Le autorità hanno raggiunto un accordo per costruire un muro per proteggere il confine tra Iran e Pakistan dalle infiltrazioni dei trafficanti di droga e dei gruppi armati sunniti. Il muro, simile a quello lungo 900 chilometri già eretto tra Iran e Afghanistan per gli stessi motivi, è in cemento armato, spesso una novantina di centimetri e alto 3 metri. Secondo il progetto, dovrebbe essere lungo 700 chilometri, con parti in terra e in pietra, trincee e punti di osservazione della polizia iraniana. Iraq, Kuwait. La barriera è lunga 190 chilometri e si estende in Iraq, Kuwait e per tutta la lunghezza del loro confine comune dall'Arabia Saudita al Golfo Persico. Costruita a partire dal 1991, il suo scopo dichiarato è quello di arginare un'eventuale nuova invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Baghdad. Un muro di 5 chilometri circonda dal 2007 il quartiere sunnita di Adamia. Il muro fu voluto dall'amministrazione Bush con l'intento di proteggere l'area dai distretti sciiti che la circondano. Arabia Saudita, Yemen. Nel 2003 il governo saudita iniziò la costruzione di una barriera lungo la frontiera con lo Yemen per separare i residenti lungo entrambi i lati del confine. Questa è la prima parte del viaggio, la scoperta dei muri che ancora regnano su alcune regioni, in alcune regioni del globo. Allora, Stati murati, sovranità in declino è il titolo del libro di Wendy Brown, professoressa di scienze politiche all'Università di Berkeley, e vi propongo di ascoltare la chiacchierata che ho fatto con lei. Professor Wendy Brown, thanks a lot for joining us in the program. The first question I would like. Professoressa Brown, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito a Nessun Luogo Lontano. La prima domanda vorrebbe partire proprio dal paradosso che lei illustra nel suo libro. Mentre democrazia e globalizzazione apparentemente si diffondono nel mondo, allo stesso tempo gli stati costruiscono sempre più nuovi muri per dividere e per proteggere. States are building new walls to divide, to separate and to protect. Nel libro spiego che ci sono molti paradossi che ci aiutano a capire quello che sta succedendo oggi. Il primo è quello che ha menzionato. Da una parte un mondo che sta diventando un villaggio globale, sempre più interconnesso, e la democrazia esercita un fascino sempre maggiore su parti del mondo che non l'hanno mai sperimentata. E nel frattempo nazioni e subnazioni in tutto il mondo stanno costruendo dei muri per tener fuori persone, armi, malattie o idee. I muri stanno nascendo ovunque. Ho perso il conto da quando ho finito di scrivere il libro, ma al tempo in cui l'ho scritto ne erano stati costruiti 37 in 10 anni, spaziando dallo Sri Lanka e dal Pakistan fino a quelli più famosi, quelli che dividono la Palestina da Israele e gli Stati Uniti dal Messico. Alcuni muri, come gli italiani sanno bene, dividono le parti vecchie delle città da quelle nuove. La mia domanda nel libro è perché? Perché in un paese così integrato e connesso al mondo ed entusiasta per la democrazia, al contempo sono stati costruiti tutti questi muri? Perché sembra esserci molto sforzo per contenere ed escludere nel momento in cui il mondo sembra essere più connesso ed integrato? La spiegazione che do nel libro è la seguente. Quello che è stato costruito per motivi di annuncio o per altri obiettivi dichiarati non li sta perseguendo granché. Il muro tra il Messico e gli Stati Uniti, per esempio, è stato poco efficace nel contrastare l'immigrazione. È riuscito solo a bloccare quella occasionale, ma il resto ha causato degli arrivi da tutto il mondo, non solo dal Messico, ma anche dall'America Latina e Centrale. Arrivi in barca, in aereo e attraverso il deserto con lunghi viaggi. In un modo o nell'altro le persone venivano comunque. Allora perché spendere trilioni di dollari costruendo un muro per regolare l'immigrazione in maniera estensiva e fermare l'immigrazione illegale, se poi quel muro non funziona? La mia risposta è che questi muri sono un tentativo per dare una dimostrazione di sovranità, che non è più la sovranità che gli stati dicono di avere. Il vero problema di cui abbiamo discusso all'inizio è che ci sono crescenti integrazione, flussi di capitale, di persone e di idee. Questi flussi e questa connettività stanno minando la sovranità a livello politico degli stati. Le nazioni, talvolta città, spesso non hanno una sovranità nulla o debole, ma il muro dà soddisfazione a livello individuale. Ti senti più al sicuro se protetto dal tuo muro. Anche i progetti politici sarebbero indeboliti se non esprimessero la capacità di difendersi, contenere, escludere. Alcuni dicono che i muri sono molto importanti politicamente, ma in realtà non fanno quello che dovrebbero fare. Materialmente hanno un effetto importante. Fanno risorgere l'idea di sovranità, il nazionalismo, le idee dello Stato e della nazione come una popolazione o un corpo coerente. Siamo italiani, francesi, europei, indiani e così via. I muri hanno ripristinato queste immagini, ma non hanno svolto il compito per cui erano stati costruiti inizialmente. In a way you did already answer to my next question, but I would like to as you mentioned it. Professoressa Brown, lei ha menzionato il grande muro che divide Stati Uniti da Messico, ma io citerei un altro muro più piccolo, quello nato l'anno scorso tra Grecia e Turchia nella regione di Evros e costruito per contrastare l'immigrazione irregolare. Il punto è che i trafficanti stanno trovando nuove vie e il risultato di questa operazione, di questa costruzione del muro, sarà un viaggio più costoso e più pericoloso per i migranti. Quale effetto sulla popolazione dell'area? A un livello politico possiamo dire che il governo greco si è dimostrato forte ed efficace nel contrastare l'immigrazione irregolare, ma la popolazione che vive nell'area dove è sorto il muro, come vive? Aggiungo solo una cosa prima di rispondere alla sua domanda. Come ha detto, l'immigrazione è difficile. Ironicamente, ha anche prodotto un livello più alto di crimine ad essa legato. È chiaramente facile entrare in un paese illegalmente, dalla Turchia alla Grecia, da El Salvador agli Stati Uniti. Il muro aveva due obiettivi: contrastare l'immigrazione clandestina e riportare la legalità e l'ordine nel paese. Ma invece ha generato un alto livello di traffici di ragazze, di droga, armi, eccetera. Ma lei ha posto una domanda diversa. Qual è l'effetto dei muri sulle persone che ci vivono vicino, specialmente nel caso del muro che separa la Grecia dalla Turchia? Ricordo un altro esempio a Belfast, dove ho lavorato, e ricordo sempre quel muro di 10 metri mentre camminavo lungo la strada, questa Peace Wall sulla mia sinistra. Credo che quel muro, che in realtà oggi forse non è così strettamente necessario, stia plasmando l'intero quartiere e anche i sentimenti, le sensazioni degli abitanti che vivono lì. Mi chiedo come si sentono quegli abitanti di Belfast, che si alzano, si svegliano ogni mattina con l'ombra lunga del muro sulla loro casa. Could feel every day, every morning, waking up with this big wall and this shadow on their house. Penso che lei abbia già risposto alla domanda. Aggiungerò solo due o tre cose. I muri sono importanti nel capire quello che oggi chiamiamo identità politica della popolazione di entrambi i lati del muro, connettendo l'appartenenza nazionale con la xenofobia. I muri, letteralmente, isolano le persone nei confronti di coloro che sono fuori. Costruire muri non solo lascia fuori gli outsider come altri, diversi, ma è pericoloso e dannoso quanto invadere. Il muro è un'arma a doppio taglio. Quello che è fuori è altrettanto pericoloso di quello che è dentro. Questo, come ha detto, ha un effetto tremendo sulla soggettività della popolazione che vive all'ombra del muro. Al contrario, quelli fuori ovviamente sviluppano un'identità politica dove sono letteralmente esclusi, come se non fossero parte di un mondo globale e dell'umanità. In conclusione, i muri hanno un effetto tremendo, soprattutto per le persone che ci vivono più vicino. Ma direi che c'è un'altra ironia. Quelli che vivono più vicini al muro, da un lato sono i più consapevoli di quello che significa il muro, dall'altro sono quelli che conoscono meglio i modi per aggirarlo. Professoressa Brown, grazie mille per essere stata con noi e per aver partecipato a Nessun Luogo Lontano. It was my pleasure. Bye-bye. E questa era Wendy Brown, autrice di Stati Murati, Sovranità in Declino, edito da pochissimo da La Terza in Italia, un saggio che si interroga sulla validità, sull'efficacia dei tanti muri che ancora sono sorti anche recentemente in tante regioni calde del mondo. È un po' il senso anche della puntata di questa sera di Nessun Luogo Lontano. Torneremo a parlare di muri subito dopo la pausa. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Alcuni dicono che i muri sono molto importanti politicamente, ma in realtà non fanno quello che dovrebbero fare. Materialmente hanno un effetto importante. Fanno risorgere l'idea di sovranità, il nazionalismo, le idee dello Stato e della nazione come una popolazione o un corpo coerente. Siamo italiani, francesi, europei, indiani e così via. I muri hanno ripristinato queste immagini, ma non hanno svolto il compito per cui erano stati costruiti inizialmente. Allora, questa è la disamina, gentili ascoltatori, la ricognizione che fa Wendy Brown di quelli stati murati in giro per il mondo e il tratteggio di questa sovranità in declino. La tesi di Wendy Brown è particolarmente interessante proprio in un momento in cui il mondo si fa sempre più globalizzato, tra virgolette la democrazia viene sempre più esportata e allo stesso tempo si assiste forse a nuove paure che emergono e questi stati che tendono sempre di più a difendersi, a proteggersi e a dividere e a separare. Allora, in questo viaggio che vi propongo questa sera vi porto al valico tra India e Pakistan, tra Wagha e Amritsar. E andiamo in questo valico grazie a Francesca Recchia, che è una scrittrice, una ricercatrice, che ha girato mezzo mondo, ha lavorato in India, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, in Palestina, fra gli altri, si occupa di geopolitica, dei processi culturali e proprio lei ci racconta che cosa accade al confine tra India e Pakistan in quel particolare valico. Francesca, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera. Allora, perché hai scelto di raccontarci quel particolare valico dove in realtà non c'è un muro vero e proprio? Ma La cosa interessante del passaggio fra India e Pakistan nel punto specifico fra Amritsar e Wagah è che si tratta dell'unico varco aperto fra quel confine fra i due paesi, e parliamo di un confine che è lungo 2900 chilometri. La cosa interessante del posto di confine, e quindi di questo varco aperto, è che rappresenta una sorta di celebrazione dell'idea del confine, non solo in termini simbolici, ma diciamo proprio in modo letterale. Ogni giorno, infatti, alle 4:30 del pomeriggio c'è una cerimonia di chiusura del confine. I rappresentanti dei due eserciti, quello indiano e quello pakistano, vestiti con uniforme simile e con lo stesso turbano, uno arancione e uno verde, si confrontano con il famoso passo dell'Oka davanti a un pubblico sempre piuttosto folto di spettatori, indiani da una parte e pakistani dall'altra. Celebrano la chiusura del confine attraverso una cerimonia piuttosto elaborata e la maina bandiera. La cerimonia è sostenuta dagli spettatori dalle due parti del confine con grida e slogan da una parte celebrano il territorio indiano e dall'altra celebrano la grandezza di Allah. La cerimonia è abbastanza spettacolare perché è, come dire, giocata a suon di battiti di tacchi e di urla del pubblico, quindi pochi posti come quello fra Wagah e Amritsar secondo me rappresentano anche, se vogliamo, la dimensione spettacolare dell'idea del confine, che è un'idea non solo fisica e geopolitica ma anche profondamente simbolica. Al concetto di confine è strettamente legato il concetto di sovranità, e nel libro che citavo all'inizio di Wendy Brown, Stati murati, sovranità in declino, c'è un capitolo, un paragrafo anzi molto interessante, si intitola La teatralizzazione della sovranità, che, come dire, cade a fagiolo rispetto al racconto che facevi tu. E nel libro si legge testualmente di un allevatore dell'Arizona, un ex marine, precisa l'autrice, che ha dichiarato a un giornalista, riferendosi al muro tra Stati Uniti e Messico: hanno costruito questo muro come un oggetto da esposizione, così gli americani lo possono osservare e dire: oh sì, questo li fermerà. Potrebbe fermare un gringo, uno di quei grassoni che stanno sempre davanti alla TV, ma uno che viene da Oaxaca, cioè dal Messico, che ha fame e vuole un lavoro, non lo ferma. È un palliativo, non serve a niente, tutta la faccenda è completamente fasulla. Francesca Recchia, trovi anche nella tua esperienza queste teatralizzazioni, queste celebrazioni appunto di sovranità, di controllo dei confini, che poi però in ultima istanza non sono così efficaci? Ma se vuoi, la teatralizzazione del confine rappresenta una sorta di lama a doppio taglio, perché in qualche modo se celebra l'integrità dello Stato nazionale che si sviluppa e che si riconosce all'interno di un territorio delimitato, celebra allo stesso tempo la fragilità di questo concetto. Di nuovo il confine fra India e Pakistan ne è l'esempio. È un confine tracciato in modo, come dire, come è capitato in molti posti in Africa, assolutamente arbitrario e senza seguire, se vogliamo, il corso della natura, che può essere quello dei monti, dei fiumi, ma decidendo che a un certo punto da qui a lì c'è un paese, da lì a qui ce n'è un altro. Sì. Quindi sì, sicuramente insomma c'è questa doppia dimensione di tranquillizzante, nel senso che tutti quelli che sono all'interno di una certa linea appartengono allo stesso paese. Sì. Ma anche, come dire, rinforza l'idea di fragilità di un'idea di Stato-nazione assolutamente spesso fittizia e costruita sulle mappe. Sì. Peraltro, per citare un altro paese dove peraltro sei in questo momento, perché ti abbiamo raggiunta a Kabul, mi viene in mente proprio tutti quei legami clanici e etnici che esistono al confine tra Pakistan e Afghanistan, e dove in quel caso il confine insomma è assolutamente poroso, permeabile, no? quasi inesistente per chi lo oltrepassa quotidianamente. Sì, assolutamente, anche qui è una linea tirata a tavolino, probabilmente con riga e squadra, ed è una linea che è stata inventata per proteggere gli interessi espansionistici geopolitici dell'Inghilterra e della Russia nel 1893. È la famosa linea Durand, che è una linea che non è una linea, nel senso che è uno dei confini probabilmente più porosi al mondo, perché si trova sull'Hindu Kush, e quindi è abbastanza difficile capire quale pezzo di montagna appartiene a quale paese, e le popolazioni che abitano in questa parte di mondo si riconoscono come un tutt'uno. al di qua e di là, al di là della linea Durande, infatti esiste quello che popolazioni di etnia pashto chiamano il Pashtunistan. Infatti il confine che divide il Pakistan dall'Afghanistan taglia a metà il territorio che appartiene alle popolazioni tribali di etnia pashto, che, come dire, si riconoscono rispetto a un certo tipo di percezione del mondo, parlano la stessa lingua, sono sì, etnicamente simili. Sì, e spesso condividono gli stessi ideali o la stessa insofferenza, per stare sulla stretta attualità, anzi attualità degli ultimi 10 anni, la stessa insofferenza per le truppe straniere presenti nel territorio. Francesca, stai con noi perché continuiamo nella nostra ricognizione dei muri più noti e meno noti, perché vi sono alcuni che sono dei veri e propri topos letterari, no? Per chi si occupa di esteri, il Polisà, il muro del Sahara occidentale, i muri di Belfast, sono stati così tante volte raccontati che ormai suonano quasi come retorica, altri invece sono forse un po' meno noti. Israele Cisgiordania. Il muro di separazione israeliano è un sistema di barriere lungo 730 chilometri, costruito da Israele in Cisgiordania, a partire dalla primavera del 2002, sotto il nome di chiusura di sicurezza, allo scopo ufficiale di impedire l'intrusione di palestinesi nel territorio nazionale. Israele-Egitto. È una nuova barriera lungo il confine con l'Egitto, la cui costruzione era stata autorizzata nel 2010. È lunga 230 chilometri, alta 5 metri, ed è caratterizzata da torri di controllo, telecamere di sicurezza e allarmi all'avanguardia. Cipro. Costruito tra il 1974 e il 2003, il muro è lungo 300 chilometri ed è stato edificato per proteggere i ciprioti turchi da quelli greci. La comunicazione è stata riaperta nel 2003, ma parti del muro restano in piedi. Grecia-Turchia. Sulle rive del fiume Evros, che separa l'Europa dall'Asia e che dal 2007 è diventata una delle vie preferenziali per l'immigrazione verso l'Europa, è stata edificata una doppia barriera di reticolato e filo spinato lunga 12 km e mezzo. Belfast. Più di 90 barriere di metallo, cemento e reticolati di filo spinato furono costruite a partire dal 1969, quando le tensioni etnico-religiose tra cattolici e protestanti sfociarono nei Troubles, i disordini che dilaniarono l'Irlanda del Nord fino alla fine degli anni 90. Spagna-Marocco. Due barriere di filo spinato alte 3 metri, completate nel 1998, cercano di ostacolare l'immigrazione illegale e il contrabbando dal Marocco nelle città autonome spagnole di Ceuta e Melilla. Marocco-Mauritania. Il muro del Sahara occidentale, anche noto con il termine Berm, è il muro più grande del mondo dopo la muraglia cinese. Ha una lunghezza superiore ai 2720 km ed è a tutti gli effetti una zona militare, con bunker, fossati, bastioni di pietra e sabbia, reticolati di filo spinato attorniati da campi minati, e viene controllato da oltre 200.000 tra soldati marocchini e volontari. Zimbabwe-Botswana. Lungo 482 chilometri, in filo spinato, il muro è stato costruito nel 2003. La ragione ufficiale è quella di prevenire la diffusione di malattie del bestiame dal vicino Zimbabwe. Rio de Janeiro. Tuttora in costruzione, è un muro di cemento alto dagli 80 cm ai 3 metri che, una volta terminato, dovrebbe recintare 13 favelas. Lo scopo ufficiale è proteggere l'ambiente dalla deforestazione. Stati Uniti-Messico. È una barriera di sicurezza non continua costruita dagli Stati Uniti a partire dal 1994 lungo la frontiera. Tra Tijuana e San Diego si dispiega la parte più imponente. Altri tratti si trovano in Arizona, New Mexico, in Texas, tutti con l'obiettivo di impedire agli immigranti clandestini di oltrepassare il confine statunitense. Migliaia di persone sono morte in questi anni tentando di superare la barriera. E così abbiamo chiuso il nostro giro del mondo in 80 muri, non sono proprio 80, sono un po' meno, anche a caccia di quei muri un po' meno noti, un po' meno coperti dai media, soprattutto italiani, spesso poco sensibili a certe tematiche. Il muro è vero, è un simbolo, il muro è vero, divide, protegge, altre volte può essere una formidabile leva politica, una leva elettorale per muovere anche consensi. E qui voglio andare in un altro luogo caldo del nostro planisfero, dove Francesca Recchia ha studiato e ha lavorato. È vero che i muri tra Israele e Palestina sono stati usati anche da molti leader politici israeliani come formidabile leva politica, non solo i muri ma anche i nuovi insediamenti. Francesca? Assolutamente sì, ritorniamo un po' a quello che dicevamo prima. l'importanza che si dà alla definizione del territorio per, se vogliamo, consolidare i limiti fragili di un'identità che ha bisogno di affermazioni forti per tenersi in piedi. E probabilmente niente come il muro che divide Israele e Palestina e gli insediamenti che da una parte vengono negati e dall'altra parte silenziosamente continuano a essere costruiti possono essere il simbolo di questo discorso. Come dire, a livello di propaganda elettorale, tanto il muro che gli insediamenti vengono usati quasi a rassicurazione del fatto che la politica continua a interessarsi della dimensione identitaria, di rivendicazione identitaria, se vogliamo, legata alle politiche di certi stati nazionali. Ecco, Francesca, in questa puntata in cui stiamo tentando di ragionare su questi stati murati, su queste sovranità più o meno fragili, c'è un altro caso che tu conosci molto bene, dove in qualche modo questo muro evapora e dove il confine si fa sempre più labile, sempre più poroso, e bisogna andare a nord rispetto a dove eravamo prima. Tra India e Pakistan bisogna andare nel territorio conteso del Kashmir. Sì, basta spostarsi di qualche centinaia di chilometri per arrivare in una zona in cui il confine prende un nome specifico abbastanza famigerato, che è quello di linea di controllo. La linea di controllo, appunto, è quella parte di confine tra India e Pakistan che separa l'Azad Kashmir, ossia il Kashmir che adesso è in territorio pakistano, dal Kashmir amministrato dall'India. Fatto, Francesca, ti interrompo un istante perché dobbiamo fare una piccola pausa, ma poi torniamo alla stretta attualità perché una recente, abbastanza recente visita del primo ministro indiano ha mostrato ancora una volta in che situazione critica e tesa è il Kashmir. Nessun luogo è lontano. Ci servono frontiere morbide, non rigide e impermeabili. Alle soglie del XXI secolo non abbiamo bisogno di rafforzare la sovranità. Shimon Peres, The New Middle East. Ben ritrovati gentili ascoltatori ancora con Nessun Luogo è Lontano, che questa sera vi sta facendo fare un po' un viaggio, come dire, su lunghe distanze, su lunghi chilometraggi, per indagare quegli stati che si dotano di muri, quegli stati la cui sovranità è forse un po' più fragile, che hanno bisogno di difendersi, possono essere migranti, possono essere armi e droga che passano. E in questa puntata ci interroghiamo anche sull'efficacia di questi muri. Vi sono poi regioni contese, regioni dove il muro non esiste, dove il confine è poroso e dove due sovranità in un lungo braccio di ferro tentano di stabilire appunto il proprio predominio su quella regione. E grazie a Francesca Recchia siamo finiti in Kashmir. E vi dicevo prima della pausa, proprio la visita del primo ministro indiano recentemente in Kashmir è stata, come dire, contemporanea a una serie di violenze, coprifuoco, disordini. Francesca, ancora una volta la politica ufficiale, una visita ufficiale non ha, come dire, coperto quella che è una reale situazione estremamente tesa. Assolutamente, anzi se è possibile ha peggiorato la situazione e non volendo ha rivelato le complessità di un discorso politico che le retoriche ufficiali spesso negano sulla base di evidenze più o meno fittizie, quale l'aumento del numero di turisti. Il Kashmir ha una storia di rivendicazioni e di lotta per l'autodeterminazione che continua da decenni, dal desiderio di poter scegliere per sé che va inascoltato dal 1947, da quando è stato promesso il plebiscito su come collocarsi rispetto alla scena geopolitica. Come dire, in modo piuttosto ideologico la scelta è stata posta fra l'India e il Pakistan, senza considerare che probabilmente la popolazione locale quello che desidera è l'indipendenza. E mancava, quindi, diciamo, la terza via. La terza via chiaramente è più facile da ignorare che non da tenere, sì, in considerazione per i discorsi politici ufficiali. Rebels in an alley, resistance in the air. We are down for the cause, we done murdered all our fears. No more pain, we came, it's liberty or it's death. The wretched of the sword will soon be standing like the rest. Let it sing from every corner, it's honor and defiance. My people organizing, got my rebels in alliance. The poet and the scholar, guerrilla and the former, contributing to the cause like the essence of a martyr. Fighting and resisting till our day will come to pass, when the last will be first and the first will be last. we are cursed for oppression, a hearse for the tyrant. The voice of resistance will never stay silent. We're stronger than before, got the jaw that I feed. Mighty waited till the end, ain't no stopping or retreat. There will never be submissions or there'll never be defeat. We will rise, yeah. We will rise in the streets like a rebel republic, got the roots in the truth. Rebels all over, shouting from the roof. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, bring it on. A rebel republic, got the roots in the truth. Rebels all over, shouting from the roof. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, tyrant. Bring it on, bring it on. For my comrades. E la colonna sonora di questa parte di Nessun Luogo Lontano ce la regala MC Cash, che è un rapper, appunto giovane rapper del Kashmir. Francesca Recchia, questa figura così arrabbiata, così violenta a parole, non ha una casa discografica, non è un'etichetta, però si è fatta conoscere via YouTube, via social media, eccetera. Quanto riflette, come dire, i giovani, la situazione dei giovani nel Kashmir? Raccontaci un po' di lui. MC Cash è un fenomeno piuttosto interessante che in qualche modo sintetizza la condizione di frustrazione e disaffezione che caratterizza molti dei giovani kashmiri in questo momento. Le vie di sfogo sono veramente poche. Nei momenti di tensione, come quelli che ricordavi poco fa, anche la capitale del Kashmir, Srinagar, è oggetto di coprifuoco non annunciati. In Kashmir non si possono mandare gli sms perché troppo sovversivi, rischiano di stimolare assembramenti, certo, assemblee pubbliche non previste, e quindi i modi di espressione sono relativamente limitati. E MC Cash, come per esempio Sajjad Malik, che è un fantastico fumettista, si sono fatti in qualche modo espressione estremamente raffinata e molto diretta della situazione di frustrazione e disaffezione dei molti giovani kashmiri. Ecco, siamo partiti dai muri in questa puntata di Nessun Luogo Lontano per finire in un luogo conteso, che né un muro né il confine riescono a sciogliere, a dipanare questa matassa. Forse la musica e l'arte e la graphic novel invece riescono ad accendere i riflettori su quella parte di mondo. Noi ringraziamo Francesca Recchia, la lasciamo al suo lavoro a Kabul. Cosa stai facendo in questo momento a Kabul, se ti possiamo chiedere? A Kabul sto lavorando con Lorenzo Pugnoli, un fotografo italiano, ad un libro che si chiama The Little Book of Kabul, il piccolo libro di Kabul, che racconta, speriamo con tono poetico, evocativo, la vita degli artisti in città. Abbiamo seguito per diversi mesi la vita quotidiana di musicisti, designer, pittori, per cercare di capire come si struttura la vita vera, la vita normale, il posto di cui si sentono solo storie tremende. Ecco, perché al di là di ogni retorica è giusto anche abbattere quel muro che ogni tanto l'informazione erige, continuando a diffondere solo esclusivamente notizie di attentati nel cuore di Kabul, del ritiro annunciato per il 2014, di attacchi ai talebani. C'è tanto altro, c'è anche una Kabul, un Afghanistan che alza la testa, che vive e che appunto va anche a creare e a produrre arte, musica e quant'altro. Grazie allora Francesca Recchia, buona serata, buon lavoro. Grazie a voi. Stati murati, sovranità in declino, nella puntata di Nessun Luogo Lontano di questa sera. Lo avete sentito dalla nostra ricognizione che abbiamo fatto per raccontarvi i muri che ancora sopravvivono nel mondo per la caduta di quello di Berlino. Poi negli anni recenti vi sono state anche tante altre costruzioni di muri. Chi mi segue ricorda ad esempio quello che ho raccontato, quella gigantesca rete di protezione a Evros, al confine fra Grecia e Turchia. Ebbene, quella serviva per difendersi, per difendere la Grecia dagli assalti dei tanti migranti che illegalmente tentavano di entrare. Beh, quello in un certo qual modo è stato efficace, perché se guardiamo gli arresti della polizia della zona di Orestiada, appunto lungo il fiume Evros, di 2 anni fa comparati con quelli dell'anno scorso, ebbene c'è stata una drastica riduzione sia degli arresti e anche dei passaggi. E poi c'è quello americano gigantesco, nato appunto al confine tra Messico e Stati Uniti, nato per lo stesso motivo: da un lato l'immigrazione irregolare, dall'altro però anche droga, il traffico di droga, il traffico di armi. Poi ci sono invece casi più particolari come quello di Belfast, ma non solo. Spesso si parla della sola capitale dell'Irlanda del Nord, dove vi sono almeno 40 muri, ma in tutte le 6 contee amministrate dal Regno Unito, quella piccola parte a nord dell'Isola Verde dell'Irlanda che è ancora sotto il Regno Unito, ebbene ve ne sono più di 90, e gli ultimi recentemente sono stati costruiti appena 2 anni fa. Beh, in quel caso i muri di Belfast, i muri dell'Irlanda del Nord erano molto spesso vicinissimi alle case, dentro dei quartieri. e uno dei più noti, il grande Peace Wall, è alto quasi 10 metri e serviva per difendere, per separare meglio le due comunità, quella protestante e quella cattolica, che nei duri anni dei Troubles fino agli anni 90 lasciarono sul campo quasi 3.000 morti. Non che le tensioni non esistono tuttora, però vi confesso che ogni volta che cammino all'ombra di quei muri ho quasi la sensazione, ed è anche parte delle tesi del libro di Wendy Brown, che il muro vada ad alimentare una separazione, vada ad alimentare un senso del diverso, un senso dell'alterità, e quindi anche contribuisca a definire il nemico. I nuovi muri che vanno a rigare il globo, nuovi muri che spesso hanno un potere simbolico. Non è un caso che la Peace Line sia stata riempita di murales che inneggiano proprio invece alla riappacificazione e alla comunione tra le due comunità, appunto quella cattolica e quella protestante a Belfast. E comunque questi nuovi muri, segno di stati che faticano a sostenere la propria sovranità di fronte a tensioni montanti. Questo è uno dei tanti paradossi che governa la nostra modernità, ma io sono quasi in chiusura e quindi non mi resta che ringraziare Laura Fagina e Benedetta Acri, che hanno curato con me questa puntata, Valeria Bernardi, che l'ha dato musica e ritmo, naturalmente voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento è domani per la replica ore 22 in versione extra large, con qualche contenuto, con qualche chicca in più, e poi invece da lunedì ore 13:15 tutti i giorni la grande attualità diventa quotidiana. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.